La vita comunitaria dei figli di Dio è sempre stata difficile, complessa se non traumatica. La parola di Dio, fedele come sempre alla realtà, ci ricorda che sia la vita comunitaria degli ebrei, sia quella dei primi cristiani, era cosparsa di continui conflitti, lotte, questioni, denunce. Diventare figlio di Dio non significa entrare in una comunità di santi perfetti, anche se, a causa di una comune esperienza personale, essi sono nati di nuovo e quindi ritenuti santi davanti a Dio. Per cui, la convivenza fraterna per forze di cose spesso è sofferta, difficile. Per spiegare questo fenomeno, si rivendica la presunta mancanza di spiritualità dei figli di Dio, che, si dice, vivono per la carne. Anche se il termine carne non è ancora compreso. Quindi, secondo alcuni, se ci fosse più spiritualità, ci sarebbero meno conflitti. Nulla di sbagliato in tutto questo. A mio avviso, però, vi è un fattore che non è sempre e necessariamente riducibile a una mancanza di spiritualità, pur essendo ovviamente compreso in questo aspetto, ma piuttosto a un altro fattore che è quasi ignorato dai figli di Dio, la maleducazione. Senza togliere nulla al fattore spirituale, perché anche l'educazione rientra nell'aspetto spirituale, credo che vedere i problemi della convivenza fraterna sotto all'aspetto della maleducazione sia scorgere l'angolatura di una verità poco esaminata. Per cui vorrei considerare la comunione fraterna e alcuni problemi a essa relativi, soppesando il comportamento maleducato piuttosto ricorrente di alcuni figli di Dio. Uso il termine maleducazione non tanto intendendo che essi sono stati maleducati, cioè che non sono stati ammaestrati, educati in modo appropriato, ma mi riferisco alla loro scelta di mantenere un atteggiamento di cattiva educazione. Per questo, la responsabilità del comportamento maleducato o educato male non ricade sui genitori ma su di loro. E maleducazione, quando si arriva puntualmente in ritardo agli appuntamenti, questa non è certamente una novità. Di solito quando vi sono delle adunanze, delle riunioni, è abituale vedere dei credenti ritardatari che, con il loro entrare, mettono in subbuglio la riunione. Vi sono alcuni che entrano con dei bambini e cominciano a richiamarli perché, appena entrati, scappano da tutte le parti. Questi, non ubbidendo, alzano la voce, si irritano, come se fossero soli in mezzo ad un campo, lontano da ogni centro abitato. Si comportano, in mezzo all'adunanza, come se non ci fosse nessuno. E alcune riunioni in corso. E, già di per sé sbagliato arrivare in ritardo, se poi ci si comporta come se la riunione non fosse cominciata, è un atto di maleducazione e di inciviltà che non si trova neppure fra i religiosi. Almeno loro, prendendo a esempio i cattolici romani, quando entrano in un loro luogo di culto, lo fanno con rispetto, reverenza, senza fare il minimo rumore. E questo perché per loro è un luogo dove abita il Signore. Ora, vedendo il così grande rispetto per un edificio nel quale i figli di Dio sanno che il Signore non abita, poiché, secondo la sua promessa, egli ha il suo tempio, ovvero la sua presenza in mezzo a loro, come mai arrivano in ritardo e fanno confusione dove il Signore è presente? Non è forse mancanza di rispetto verso Dio e i figli di Dio stessi? Si arriverebbe in ritardo ad un appuntamento con il Presidente della Repubblica? Si permetterebbe ai bambini di fare confusione e scorazzare in sua presenza? Perché diamo meno onore al nostro grande Dio, arrivando in ritardo? Si arriverebbe regolarmente in ritardo se si dovesse prendere un treno? Arrivando in ritardo ad una riunione non si perdono delle benedizioni? E, più grave, arrivare in ritardo all'appuntamento con il Presidente della Repubblica prendendo il treno, o arrivare in ritardo alla presenza di Dio, forse è meglio non sentire la riposta. E, maleducazione quando si ha un appuntamento e non si avverte qualora si fosse impossibilitati ad arrivare puntuali o a pervenire. Sembra che tra i figli di Dio tutto sia lecito. Poiché dobbiamo tutti armarci di amore, di pazienza e di qualsiasi virtù, sembra che ogni cosa sia legittima. Così, quando non si può andare ad un appuntamento, non si telefona, non si avverte. ma i figli di Dio sono esseri umani, come tutti. Anche loro hanno le loro occupazioni, i loro impegni di famiglia. Perciò, aspettare inutilmente chi non arriva è una perdita di tempo inutile anche per un figlio di Dio. È maleducazione anche che i genitori non avvertano tramite telefono o d'altro. Quando i figli non possono essere presenti agli incontri della scuola domenicale, se chi si cura dei bambini si è preparato con un programma che coinvolge tutti, essendo per tempo avvertito che alcuni mancano, può cambiare anche programma. Ma imparare all'ultimo momento che la metà dei bambini non presenzia può essere problematico per chi si era preparato seriamente. Il disinteresse verso chi ha compiti di responsabilità rivela la poca stima che si nutre nei suoi confronti. E, maleducazione, avere dei compiti in seno all'assemblea e poi disfarsene all'improvviso a volte senza neppure dare nessuna spiegazione. Questa forma di maleducazione è molto grave. In nessun posto di lavoro ci si può licenziare senza dare un preavviso. È possibile, forse, per chi non ha nessun incarico importante, ma per chi ne riveste di rilevanti, come per un direttore o un capo reparto, un preavviso è d'obbligo. Cosa dire, allora, riguardo a quei figli di Dio che occupano ruoli di conduzione e dai quali l'assemblea dipende, se poi, all'improvviso per una causa qualunque, non di forza maggiore, essi abbandonano la Chiesa, lasciandola priva di una figura guida? Forma di maleducazione molto grave, maleducazione ignorante. È comprensibile che uno si dimetta da un incarico, ma almeno avverta la Chiesa, dia del tempo per riflettere e trovare chi lo possa sostituire. Ma interrompere di colpo un ruolo di guida è una scortesia che non si trova neppure tra coloro che non conoscono Dio. Generalmente chi si comporta così ha ricevuto improvvisamente una ferita. È comprensibile, di conseguenza, che si voglia togliere dall'incarico. Sebbene in seguito tale persona cerchi di motivare il proprio comportamento, camuffandolo con un atto di spiritualità, come per esempio il bisogno di dedicarsi di più alla preghiera e alla lettura della parola di Dio, la maleducazione dell'atto compiuto resta. Un atto spirituale non è mai maleducato. Se lo è, poiché siamo tutti peccatori, se ne dovrà però chiedere scusa. E maleducazione non restituire qualcosa quando la si riceve in prestito. E un'abitudine molto comune è non dare importanza alla roba degli altri. In questo caso bisognerebbe ricordarsi della continuo la regola di Gesù, secondo la quale bisogna fare agli altri ciò che vorremmo che fosse fatto a noi. Saremmo contenti se qualcuno non ci restituisse ciò che abbiamo prestato? Saremmo contenti se chi ci restituisce un libro lo rendesse tutto sgualcito? Ciò che è del prossimo dovrebbe essere tenuto in maggior considerazione proprio perché non è nostro. Di qualcosa che posseggo, posso farne quello che voglio, ciò è giusto, ma non è il mio diritto disinteressarmi di quello che appartiene agli altri e che, in più, mi è stato prestato. E, maleducazione, quando per bloccare una proposta alla quale non si è d'accordo, ci si appella alla necessità di pregare per conoscere bene quale sia la volontà di Dio. Pregare è giusto e necessario, ma avendo impedito che un progetto vada avanti per una seria motivazione, o avendo proposto un'alternativa fattibile, e ovviamente dopo un periodo di preghiera si avrà l'obbligo di esprimere le convinzioni alle quali si è arrivati. Ma bloccare proposte, idee, programmi, progetti, solo con lo scopo di non permetterne la realizzazione, è un gesto molto incivile, teso solo a rendere una comunità atrofizzata. Servirsi dei principi divini, quali la preghiera e la parola di Dio, per i propri scopi voluttuosi e diabolico, oltre a costituire una volgarità. E, maleducazione, non prestare attenzione quando qualcuno parla. Nella vita, molto probabilmente si passa più tempo ascoltando che a parlare. Quando si legge, quando si guarda la televisione, quando si va in assemblea, sono tutti momenti di ascolto. È triste osservare persone che chiacchierano, sorridono, quando sono davanti ad un predicatore. Se il predicatore non piace, se l'argomento non interessa, almeno per educazione, è bene prestare attenzione, fosse anche per imparare delle cose sbagliate. Conoscere un errore è sempre utile. Anche assentarsi con una scusa apparentemente plausibile, è deleterio, perché si incoraggia altri a comportarsi nella stessa maniera. E pure maleducazione, quando in una conversazione si è talmente tesi a dire la propria che non si ascolta ciò che ci sta dicendo chi ci sta davanti. Ascoltare non è solo segno di educazione, ma, poiché chi non sa ascoltare non sa neppure rispondere, diventa più che mai opportuno avere un atteggiamento di ascolto. Molti hanno qualcosa da dire, pochi hanno da dire qualcosa, proprio perché non si ha un atteggiamento di ascolto. E, maleducazione, prendere tutto come se fosse un diritto, senza rispondere con un grazie, o ricambiare in altri modi. Vi sono credenti che, dal giorno in cui sono entrati a far parte della famiglia di Dio, pensano di aver trovato la cuccagna, una bella tavola imbandita alla quale hanno il diritto di servirsi soltanto. Questi figli di Dio chiedono continuamente favori come se gli spettassero, di diritto, sentendosi eventualmente offesi se non ricevono ciò che desiderano. Nessuno, ovviamente, si identifica in questa categoria, ma la permalosità nella quale vivono certi figli di Dio rivela la realtà nascosta che alberga nella profondità del loro cuore. E, maleducazione, far finta di niente quando qualcuno chiede un piacere. Dobbiamo sempre avere il coraggio di esprimere la nostra opinione, qualunque essa sia. Non è bene parlare di se stessi, anche perché l'esperienza insegna che si è esposti di più alla critica, ma, per non esporre solo dei principi senza fare esempi, porto una mia esperienza. Ho dato a due editori un mio scritto perché lo valutassero e esprimendomi la loro opinione circa l'eventualità di poterlo pubblicare. Vidi il primo editore occasionalmente, dopo circa 2 anni, e gli chiesi cosa pensava dello scritto. Tutto candido. Mi rispose che non lo aveva neppure guardato e che pensava, forse, in seguito, di prenderlo in esame. Comprese sul momento che egli non aveva nessuna intenzione di perdere del tempo a leggere uno scritto di uno che non aveva né titoli né fama, per cui mi allontanai da lui piuttosto indignato, non tanto perché non teneva in considerazione il mio operato, ma perché non solo non mi aveva espresso con sincerità il suo parere negativo, inoltre in tutto questo tempo mi aveva lasciato in sospeso, impedendomi di poter eventualmente rivolgere ad altri curatori. Il secondo editore, dopo vari anni, non si è degnato minimamente di rispondermi, ed io, dopo la prima esperienza, lascio correre, perché ho compreso che la schiettezza è una pianta rara tra i figli di Dio e che si preferisce, sempre per amor fraterno come lo si definisce, essere maleducati, incivili, piuttosto che esprimere con franchezza un parere negativo. Questi particolari mi persuadono che aver ricevuto un'istruzione al comportamento civile non necessariamente si accompagna a comportarsi secondo stesse le comuni regole d'educazione che ci sono state impartite. Spesso si pensa che a mano che le persone diventano più istruite, più colte, si verifichi conseguentemente un miglioramento nel loro comportamento civile. Ma spesso l'educazione di persone colte è meno avanzata di quella delle persone semplici. E così, si dicono menzogne in nome di un ipotetico cristianesimo o, detta come si sono espressi i profeti, la loro sozzura è nelle pieghe della loro veste. Lamentazioni 1:9. Cioè, il peccato, una condotta sporca, la maleducazione è nascosta dietro al terbenismo, ad atti, che hanno la forma di carità ma ne rinnegano la sostanza. Dalla mia esperienza ho preso nota di un particolare del carattere dei figli di Dio che non avrei voluto notare, ma sono cosciente che tralasciare di menzionarlo non produrrebbe alcun beneficio. Molto spesso la conversione cambia il rapporto dell'uomo con Dio, ma poche volte cambia le abitudini maleducate, scaturite dal brutto carattere di alcuni santi. Se una persona è educata prima della conversione, rimane tale anche dopo, ma se non esprimeva grazia, cioè non procurava il benessere al prossimo, con l'educazione, la sincerità, la lealtà, l'onestà, la franchezza, la riconoscenza, difficilmente riuscirà a comprendere l'errore che compie e, spesso, sarà capace di giustificare con un atteggiamento cristiano ciò che di cristiano non c'è. La cosa è molto strana. Ma alla fine ho concluso che tutto è normale perché tesi, come alcuni di noi sono, nel formalismo, Molti figli di Dio sono caduti in un esame esasperato del letteralismo di ciò che è biblico, senza avvedersi che la volontà di Dio è supportata dall'educazione. Gennaio 2004. Ellero,